Un saluto a tutti e tutte. Sì, parto brevemente con un aggiornamento innanzitutto che viene da, come sempre, da informazioni che ci vengono da dentro per quanto riguarda il CIE di Ponte Galeria. Nel CIE di Ponte Galeria, come ben sappiamo, attualmente è attiva solo la sezione femminile, solo, insomma, se così si può dire, perché quella maschile ancora è, diciamo così, ferma, perché in seguito alla rivolta che c'è stata la fine dell'anno scorso. Nel CIE, nella sezione femminile, sono rinchiuse al momento circa una quarantina di donne provenienti da diverse parti del mondo, e la situazione al momento è, diciamo, che si respira e che si vive lì è così, diciamo così, usiamo un termine strano, cioè di strana calma, nel senso quello che vige lì al momento, per quanto riusciamo a sapere da fonti interne, è un po', diciamo, ciò che ruota intorno alla promessa e alla minaccia, nel senso che sono molte le promesse che vengono fatte. Come tu hai ricordato giustamente prima, molte persone che sono rinchiuse nel CIE sono persone che hanno fatto richiesta d'asilo, quindi in attesa di una comunicazione rispetto a questo. E per questo qui, ovviamente, come ben sappiamo, adesso i termini massimi di reclusione dovrebbero essere 3 mesi. Adesso la maggior parte delle persone, delle donne che sono rinchiuse lì dentro, aspettano lì una risposta dalle commissioni varie per la richiesta, insomma, di asilo, e sono rinchiuse da più tempo, cioè, insomma, di tra i 4, 6, addirittura si arriva a 7, 8 mesi. La normativa prevede fino a un anno di reclusione per i richiedenti asilo. Esattamente, esattamente. Quindi questa è un po' la situazione dentro il CIE di Ponte Galeria. Ovviamente, come dicevo prima, molto ruota intorno alle finte promesse che a turno da associazioni, guardie, delegazioni politiche, eccetera, eccetera, vengono fatte a queste persone che, come abbiamo saputo in diverse occasioni, a volte vengono deportate, anche vengono fatte uscire fuori, deportate anche con l'inganno. Questa è un po' la situazione che si respira. Quando poi, diciamo, la promessa non funziona, perché ovviamente le persone recluse non si lasciano prendere in giro così facilmente, si arriva alle vere e proprie minacce e quindi ai soliti tentativi di isolamento, soprattutto, questo crediamo sia importante segnalarlo rispetto a quello che avviene fuori, rispetto alla solidarietà che in qualche modo da fuori si prova a portare, e appunto questo è un po' quello che sta avvenendo lì. Per questo, ovviamente, come tutti i mesi, sabato prossimo si andrà sotto le mura del CIE di Ponte Galeria per portare un saluto solidale a queste donne che si trovano lì a Ponte Galeria, e insomma l'appuntamento è il solito, alle 15 a stazione Ostiense, per prendere il treno, andare lì, dalle 4 si inizierà con un presidio rumoroso e si spera il più possibile partecipato, per appunto salutare queste persone, per insomma ripetere il numero di telefono con il quale si prova a tenere il contatto costante e quotidiano, e per, insomma, come sempre, per portare solidarietà a tutte. Poi io vado avanti, poi se avete domande, insomma, se volete interrompermi, fate pure. In quest'ultimo periodo, come immagino sia stato anche più volte detto anche in questa trasmissione, diciamo, questo periodo rispetto ai centri di identificazione ed espulsione è abbastanza, diciamo così, particolare, nel senso che comunque praticamente da novembre fino a oggi sono ben 3 i CIE che sono stati chiusi in seguito a rivolte, e per questo c'è anche una circolazione, ovviamente, di reclusi che da un CIE poi vengono, siccome vengono chiusi i CIE, vengono poi portati in altri, quindi in qualche modo si riescono ad avere contatti. Abbiamo delle notizie abbastanza fresche, diciamo, che vengono dal CIE di Caltanissetta, che è un CIE che, insomma, dal quale purtroppo non abbiamo avuto spesso grandi informazioni. Ceri Caltanissetta adesso sta vivendo un momento abbastanza particolare, perché sempre, questo ovviamente non ci stiamo inventando niente, sono cose che ci vengono dette dai reclusi in prima persona. Adesso praticamente ieri proprio ci hanno raccontato che c'è stata un'ennesima delegazione, di questa volta di una commissione europea. I detenuti ci parlano di gente che veniva da diversi paesi d'Europa, quindi se insomma da una commissione di Strasburgo, a quanto pare, che appunto andava a controllare quello che stava succedendo dentro questi centri. Pochi giorni fa c'era stata un'altra delegazione, questa volta invece di politici italiani del PD, che andavano insomma a vedere e controllare quello che succedeva lì. La situazione è abbastanza paradossale e anche abbastanza ridicola, proprio, ripeto, utilizzo i termini che insomma che ci vengono da dentro, perché praticamente il CIE di Caltanissetta, come tanti altri, come tutti gli altri praticamente, ormai possiamo dire così, è utilizzabile. Al momento sono recluse lì esattamente 35 persone, e la gran parte del centro non è utilizzabile, perché anche quella è stata messa un po', diciamo, stata distrutta in seguito a rivolte. Quello che è successo in questi giorni è stato che è stata ristrutturata molto velocemente una piccola parte del CIE, proprio per consentire a queste delegazioni di entrare e insomma fare le foto di turno per presentare una situazione che ovviamente non corrisponde neanche minimamente alla realtà quotidiana di quello che vivono insomma i detenuti. Addirittura ci raccontano che il capo della polizia, che è presente praticamente quotidianamente lì al centro, si rivolge, come ci dicono, un tipo abbastanza arrogante e molto presuntuoso, che si rivolge in maniera molto sgarbata, per usare un termine leggero, a tutti i detenuti. Sembra che ieri insomma invece avesse un atteggiamento molto cordiale, addirittura salutava i detenuti in diverse lingue, eccetera eccetera. Ovviamente il nervosismo dentro era molto alto, proprio perché insomma immaginiamo che sentirsi presi in giro in questo modo è una cosa abbastanza difficile da sopportare. E lì la situazione di vita quotidiana è stata super complicata soprattutto in queste ultime settimane, proprio in seguito a questa ristrutturazione veloce. Addirittura ci hanno raccontato che di lavori che venivano fatti mentre, per esempio, in cucina, nella mensa, mentre loro mangiavano, c'era gente che pitturava eccetera eccetera, proprio per consentire una messa a punto veloce di una piccola parte del CIE. Quindi questo è quello che si respira un po' in questi centri. Ovviamente i problemi che vivono i detenuti lì sono un po' sempre i soliti. Segnaliamo sempre, ormai è prassi, però è bene sempre ricordare queste cose, che diciamo le condizioni igieniche e il cibo sono insomma una delle fonti di disagio più concrete e più che si vivono proprio tutti i giorni. Poi insomma, ecco, se mi permettete un po' di fare un'analisi generale, qui mi permetto di dire che la situazione è, come si può vedere dalle cronache recenti, è abbastanza importante rispetto a quello che sta avvenendo proprio in tutti i centri. Ricordo, cioè il CIE, la sezione maschile del CIE di Roma è stata distrutta in seguito a una rivolta. La stessa sorte è toccata al CIE di Bari e al CIE di Crotone. Quindi e questo è successo proprio, diciamo, in un arco temporale abbastanza limitato. Quindi insomma, a differenza di quello che viene raccontato un po' dalle cronache eccetera eccetera, la situazione all'interno di questi centri è veramente esplosiva. Il coraggio e la voglia di lottare, di affermare proprio la propria esistenza attraverso la lotta, attraverso le rivolte di queste persone detenute in questi centri è molto alta. È paradossale, perché poi effettivamente il riscontro che c'è fuori è abbastanza ridicolo se rapportato al coraggio e veramente alla forza che queste persone stanno mettendo in atto veramente quotidianamente, ripeto, con rivolte individuali, collettive, eccetera eccetera. Ovviamente parliamo di numeri abbastanza bassi rispetto al flusso di migranti e di persone che comunque si imbattono nei circuiti dell'accoglienza, della cosiddetta accoglienza e della cosiddetta integrazione. È importante ricordare questo perché? Perché a discapito insomma di tante analisi raffinate che poi anche purtroppo spesso in ambienti cosiddetti militanti o sovversivi vengono fatte, in realtà la situazione è anche abbastanza semplice. Tutto quello che viene presentato come accoglienza e integrazione in realtà sono strumenti di sorveglianza, cioè, e di punizione. Il CIE è proprio la punta estrema, i CIE in generale è proprio solo la punta estrema di questo meccanismo punitivo. Ricordiamo che le persone che vengono rinchiuse in questi centri qua spesso sono persone che vengono dal carcere, sono persone che vengono considerati i cosiddetti socialmente pericolosi, quelli che insomma diciamo gli incorreggibili o gli insuscettibili di ravvedimento, come diceva insomma, come recitava un vecchio codice italiano. Questa è un po' la situazione che si respira. Ripeto, è importante segnalarlo proprio perché la cronaca, le notizie, i fatti, ma ripeto, non solo quelli insomma della stampa organizzata, istituzionale, insomma dei media più importanti, ma anche quella che ci viene da associazioni, da tutto un mondo della sinistra umanitaria, della sinistra insomma che vorrebbe appunto che utilizza questo vocabolario dell'accoglienza e dell'integrazione, è completamente diverso dalla realtà. La realtà ci dice tutt'altro, la realtà ci parla di rivolte, lotte. Nell'ultimo anno c'è stata una protesta, una rivolta, una lotta al giorno rispetto a queste condizioni qui, e insomma questo ci dovrebbe un pochino in qualche modo far riflettere anche rispetto a quello che avviene fuori. Un'altra cosa che vorrei dire è che tutto questo meccanismo qui è un meccanismo che vede la punta estrema in questi centri di reclusione, ma è un meccanismo che comincia ben prima, è un meccanismo che come sappiamo comincia per strada, comincia con le retate, comincia in tutti i luoghi che attraversiamo e che soprattutto nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri devo dire, viviamo e insomma che attraversiamo tutti i giorni. E quindi questo è anche un po' da monito, anche un po' da segnalazione per dire insomma che lottare contro questi centri qui potrebbe essere possibile farlo, come dire, quotidianamente. Basta un po' aprire gli occhi rispetto a quello che sta succedendo. Rispetto alla città di Roma, infatti, non è un caso che proprio ultimamente c'è tutto un gran parlare sulla stampa di questo cosiddetto scandalo che l'altro anno, mi sembra, intorno tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 era stato firmato un accordo per il lavoro cosiddetto volontario dei migranti, e adesso sembra che si siano decisi ad applicare questa cosa qui, il lavoro volontario. Mi sembra che ne avete parlato in maniera abbastanza estesa la trasmissione scorsa, però appunto è un sistema di schiavizzazione, diciamo così, legalizzato, che prevede che delle persone che richiedono asilo, che insomma che chiedono un aiuto umanitario in paesi europei, lavorino gratis, come insomma per acquisire punteggio, diciamo così, rispetto poi all'accettazione o meno dell'accoglienza. Sembra che a Roma questo progetto debba partire, sembra che si stiano accelerando un po' i tempi e sembra che il municipio più interessato sia, insomma da qua dovrebbe partire questa vergogna, dovrebbe essere il quinto municipio, quindi insomma le aree intorno a Pigneto, Centocelle, Torpignattare eccetera, dove infatti non a caso sono appunto le aree dove c'è una concentrazione di migranti insomma abbastanza alta, e dove anche lì, ripeto, anche tutta una serie di associazioni, di comitati cittadini insomma fanno continue proteste, sembra che alzano la testa intorno al cosiddetto degrado, come se fossero queste persone a portarlo insomma. Quindi questo è un po' il quadro generale. Guarda, noi ti ringraziamo davvero, anche perché fra poco andremo a contattare proprio un compagno, una persona presente nel quinto municipio, e ci racconterà un po' le lotte che si stanno per mettere in campo, quelle immagino che fanno parte di un percorso rispetto a quanto ci dicevi. Quindi ti ringraziamo anche per averci dato degli aggiornamenti dai centri di identificazione ed espulsione, che ricordiamo appunto sono unicamente 4, con una capacità di massimo 270 persone da internare, tant'è che insomma il Consiglio europeo ha intimato l'Italia di allargare la capacità di questi centri atti insomma all'espulsione coatta delle persone senza un regolare permesso di soggiorno. Parliamo appunto del CIE di Corso Brunelleschi a Torino, del CIE di Ponte Galeria a Roma, del CIE di Brindisi Restinco e del CIE di Pian del Lago a Caltanissetta. Sono le uniche 4 strutture in realtà da affiancare poi agli hotspot. Infatti insomma chiudono dei centri, ne aprono altri con nuovi nomi, ma insomma lo strumento è quello dell'identificazione forzata, è quello dell'espulsione o comunque di inserire le persone in altri centri di controllo e di sfruttamento. Infatti insomma il riferimento che facevi al lavoro gratuito è piuttosto calzante. Io aggiungo unicamente una notizia comparsa ieri sui giornali, che trovo piuttosto grave e riguarderebbe una persona reclusa dentro il CIE di Gradisca di Sonno. Ricordo un CIE che è stato chiuso grazie alle proteste delle persone internate, sostenute all'esterno da diverse realtà cittadine che si sono mobilitate per sostenere le proteste delle persone rinchiuse, proteste che tra l'altro portarono alla caduta dal tetto di una persona reclusa e poi dopo qualche mese di coma alla morte di questa persona. Parliamo di un CIE dove 21 esponenti tra dirigenti e lavoratori della Connecting People sono sotto processo riguardo una truffa, ovvero sembrerebbe le indagini porterebbero a una responsabilità rispetto all'essersi intascati indebitamente dei soldi rispetto alla gestione del centro. E appunto la notizia riportava l'arresto di un ragazzo a quel tempo, quindi al tempo della rivolta che chiuse il CIE di Gradisca di Sonso, proprio ieri a Malpensa nell'aeroporto. Sembrerebbe che insomma transitava per l'aeroporto per uno scalo, su di lui pendeva un mandato d'arresto e quindi è stato tratto in arresto proprio perché identificato come responsabile della rivolta che danneggiò polverizzando poi quel lager. E sì, appunto sì, mi sembrava un po' del meccanismo punitivo che appunto di cui parlavamo. Assolutamente, poi insomma parliamo di una persona che dopo il carcere rifinirà nel CIE in questo meccanismo infernale insomma. E allora appunto se sei d'accordo ti chiederei di ripetere l'appuntamento per il presidio prossimo davanti al CIE di Ponte Galeria, così che insomma chi ci ascolta possa iniziare a pensare di poter partecipare a una manifestazione. Insomma qui in città non sembra che ci sia una reale attenzione, tant'è che insomma il presidio che è avvenuto nei giorni scorsi volto insomma a dire un no deciso all'accordo fra l'Europa e la Turchia nella deportazione coatta di migranti e non è stato piuttosto partecipato, anzi quindi insomma magari qualcuno si può preparare per tempo per partecipare a questo presidio di solidarietà nei confronti delle donne recluse a Ponte Galeria. Certo, assolutamente, lo speriamo. Ricordo l'appuntamento è sabato 26, quindi sabato prossimo alle ore 15 c'è l'appuntamento a stazione Ostiense per prendere il treno, arrivare poi intorno alle 16, come più o meno facciamo di solito, si fa di solito da sotto le mura del CIE di Ponte Galeria, e lì insomma proveremo come sempre a metterci in contatto e insomma e portare un saluto caloroso e solidale alle detenute del CIE di Ponte Galeria. Quindi 15 sabato 26 ore 15 stazione Ostiense, ore 16 sotto le mura del CIE. Noi ti ringraziamo e ti invitiamo insomma a contribuire da questi microfoni quando ne hai voglia. Grazie. Assolutamente, grazie a voi, buona trasmissione. Ciao. Grazie.